Nainano, nano na. Nainano, nano na. Nainano, nano na. Nainano, nano na. Nainano, nano na. Nainano, nano na. Kiko, que sei terra. Kiko, que sei grano. Dimmi come muori, come cresci piano piano. Pane ti fa il fuoco, buono più del sale. Dammi quell'amore che fa bene, fa danzare. Kiko, che sei d'acqua. Kiko, che sei d'uva. Dimmi perché piangi e perché non hai paura. Vino ti fa il tempo e tutto intorno è nuovo. Verbo nel mio sangue, tu mi inebri ad ogni istante. Nainano, nano na. Nainano, nano na. Nainano, nano na. Nainano, nano na. Nainano, nano na. Nainano, nano na. Kiko, che sei terra. Kiko, che sei grano. Dimmi come muori, come cresci piano piano. Pane ti fa il fuoco, buono più del sale. Dammi quell'amore che fa bene, fa danzare. Kiko, che sei d'acqua. Kiko, che sei d'uva. Dimmi perché piangi e perché non hai paura. Vino ti fa il tempo e tutto intorno è nuovo. Verbo nel mio sangue, tu mi inebri ad ogni istante. Nainano, nano na. Nainano, nano na. Nainano, nano na. Nainano, nano na. Nainano, nano na. Nainano, nano na. Nainano, nano na.